Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa volta parliamo di un libro dedicato a una persona che tutti conoscono, Sergio Marchionne. Il libro è Stile Marchionne, un nuovo modello di management, edito dal gruppo del Sole 24 Ore, ed è scritto da Maria Ludovica Varvelli e Riccardo Varvelli, che è con noi. Buonasera Varvelli. Buonasera Fabi. Allora, Stile Marchionne, se non sbaglio però un libro su Marchionne l'avevate già scritto un paio d'anni fa. Ebbene sì, infatti esattamente 2 anni fa. Tant'è che pensavamo che con quello non ne avremmo scritte più. Poi, dato il successo del libro e dato l'interesse dell'editore, che è 24 ore, e che ha visto quindi nell'argomento, soprattutto sulle novità che poi Marchionne ha introdotto negli ultimi 2 anni, ci ha chiesto di fare un'altra edizione, e quindi soprattutto raccontando quello che è avvenuto negli ultimi 2-3 anni. Ecco, Riccardo Varvelli e Maria Ludovica Varvelli, che era di lui moglie, sono due persone che si occupano da sempre, non diciamo da quanti anni, di problemi aziendali, di management, di potenzialità delle persone, hanno seguito molte aziende, sono consulenti di imprese e hanno scritto molti libri, mi pare un quarto di un centinaio di libri, cioè 25-30 libri sulla cultura manageriale. Se posso aggiungere una nota, se vuoi sapere da quanti anni ci intendiamo, seguiamo queste cose, sono 35 anni. Ecco, questo non volevo dirlo, ma comunque sono tanti anni. Denuncia la nostra età. Allora possiamo dire forse 35 anni fa c'era qualcosa di diverso nelle aziende. Sì, e devo dire che infatti avevamo altri problemi da raccontare, soprattutto non problemi legati ai momenti drammatici di questo periodo. Ecco, abbiamo poco tempo purtroppo come sempre, quindi guardiamo un po' cosa è successo non negli ultimi 35 anni ma in questi ultimi 2 anni. Perché è successo qualcosa che ha meritato di approfondire lo stile Marchionne, come è il titolo di questo libro? Io vedo 2 spunti. Uno è che un'azienda che veniva considerata decotta o comunque verso più la fine che non invece il rilancio riesce non soltanto a rivitalizzarsi ma a comprare la crisi. Dico comprare anche se il termine è un po' pesante. Comunque entrare in rapporto a un mercato che la Fiat ha sempre cercato di aggredire senza successo e che invece veramente in questi mesi si dimostra che l'idea dell'acquisire in qualche modo, entrare nell'azionariato ormai con maggioranza netta della Chrysler, si è dimostrato un elemento vincente. La seconda è più recente ancora, è proprio di questi giorni, cioè il fatto che ancora una volta la Fiat, che ha sempre sostenuto la Confindustria, che ha contribuito allo sviluppo della Confindustria, prende la decisione drastica e direi anche un po' drammatica di lasciare la Confindustria per tenersi libero dell'applicare contratti che quelli un po' ingessati che fino adesso venivano di svilupparsi, Confindustria ha in qualche modo avallato. Quindi uno stile molto personale, molto di rottura, che ha rotto i vecchi schemi, perché nessuno, forse 5 anni fa, poteva pensare che la Fiat potesse uscire da Confindustria. Ha rotto i vecchi schemi, però seguendo una logica manageriale molto precisa. Ma dunque, intanto nel libro precedente, con il libro precedente quando noi giravamo per l'Italia, trovavamo un consenso abbastanza corale nell'ambito degli imprenditori e dei manager italiani. Invece degli ultimi 2 anni Marchionne è riuscito a spaccare un po' la sua figura in termini positivi e negativi, cioè in questi ultimi 2 anni, mentre prima il consenso delle sue attività e delle sue operazioni era sempre positivo, adesso invece ci accorgiamo che alcuni condividono e altri non lo condividono in maniera anche netta. Quindi questo è un fenomeno che ci accorgiamo sempre girando per le unioni industriali, le associazioni e anche le aziende. Questo è il primo aspetto. Il secondo è che noi il secondo libro l'abbiamo intitolato Stile Marchionne, perché devo dire che è uno stile abbastanza insolito, cioè di Marchionne si può dire tante cose, ma che abbia un coraggio da leone, che abbia la volontà di rompere gli schemi tradizionali e quindi andare come un panzer contro situazioni ancora peraltro valide per altri contesti, ma non per Fiat. Ecco, questo è, io dico il merito perché noi siamo un po' dalla parte di Marchionne, però per altri invece è il disturbo che il Marchionne ha introdotto nella gestione delle aziende in Italia. Ecco, il libro si conclude a molte frasi che occupano intere pagine molto evidenti su cos'è la leadership, cos'è il leader, si conclude con questa frase: il leader tratta tutti con dignità ed equità. È forse un po' una provocazione di fronte a certe immagini di Marchionne? Questo è il merito che va a Marchionne, cioè Marchionne che è molto netto, molto duro, e anche con i suoi manager, ancora recentemente abbiamo letto sui giornali che una responsabile della linea 500 in America è stata licenziata proprio in questi giorni, però io ritengo che il suo comportamento è cristallino, è molto duro, ma è equo, nel senso che lui si chiede di sottostare o di comunque condividere dei patti. Se questi patti vengono a mancare, allora con dignità vuol dire nel rispetto delle persone. Lui ha perso anche grossi personaggi che sono dati alla concorrenza, rispetto ai quali non ha mai sprecato e detto una parola negativa, cioè ritengo che lui ritiene che sia possibile di crescere con lui e poi a un certo punto svezzati dalla sua modalità, peraltro un po' brutale, certe volte, se anche vanno alla concorrenza continua a rispettarli, tanto per fare un nome, Di Meo, che è passato alla Volkswagen. Ecco, nel libro, in conclusione, ci sono anche 7 interviste con 7 giudizi significativi, come li chiamate, di altrettanti personaggi che hanno vissuto da vicino anche tutte le problematiche della Fiat, da Sergio Camparino, sindaco di Torino, a Severino Poletto, arcivescovo, a Gianfranco Carbonato, presidente dell'Unione Industriali, Raffaele Bonanni, Luigi Angeletti, Vincenzo Scudieri, segretario generale della CISL, della UIL e della CGIL, e Francesco Profumo, fino a qualche giorno fa rettore del Politecnico di Torino. Ecco, poi Francesco Profumo, rispondendo appunto alla vostra ultima domanda, afferma: ogni specializzazione deve aprirsi alla cultura, non soltanto tecnica, ma al sapere della sicurezza, dell'ambiente, delle risorse umane, dell'economia, della sociologia e della giurisprudenza. Dobbiamo, e lo stiamo facendo, modificare i nostri curricula scolastici per produrre 10, 100, 1000 Sergio Marchionne. Sembra il programma del ministro dell'istruzione, come poi è diventato Profumo. Sì, adesso lo voglio vedere alla prova, perché io di Profumo sono amico e ho collaborato con lui ancora recentemente con alcune iniziative, facendo del Politecnico di Torino, come credo chi ci ascolta sa, il migliore ente universitario italiano e tra i migliori internazionali. Però lui l'ha fatto dal punto di vista dell'esperienza universitaria. Adesso la grande prova che deve fare è quello di introdurre quel tanto di capacità politica e non soltanto didattica nel nuovo incarico. Io Profumo lo stimo molto e credo che purtroppo i tempi sono molto brevi, perché 18 mesi che hanno davanti sono veramente poco, comunque riuscirà a introdurre e a rispettare le cose che nell'intervista dice. Il Profumo ha il vantaggio che, oltre a essere un professore universitario, non lo dico contro i professori universitari perché fanno parte della mia categoria, però lui ha lavorato in azienda, quindi sa cosa vuol dire mediare con gli operai, intervenire nelle situazioni sindacali, quindi credo che quel tanto di o quel poco di politico che noi professori universitari abbiamo, lui lo saprà giocare al meglio. Ecco, Marchionne è venuto un po' come un marziano, con esperienze all'estero, studi all'estero, pur essendo appunto italiano di nascita e di origine. Come giudica gli studenti italiani, le università italiane, la realtà italiana? Ma è proprio Profumo me l'ha detto, perché hanno avuto degli incontri quando sono andato in Canada, dove il Politecnico di Torino ha un'intesa con l'università, con le università canadesi, e Profumo quindi ha avuto modo di dialogare con Marchionne proprio sulla utilità, necessità di dare una svolta anche alle formazioni universitarie. Non a caso, non so se è noto, ma a Torino noi abbiamo già un corso che è dedicato solo e soltanto all'automobile, cosa che non credo che avvenga e che ci sia in altre università, proprio perché dobbiamo cercare di dare dei contenuti più specifici, meno generici agli allievi. E devo dire che questo corso qua è un successo soprattutto internazionale. Oggi prevalgono più gli stranieri in questo corso che non gli italiani. Ecco, mi pare che sia stato un corso peraltro voluto da Sergio Pininfarina. Assolutamente sì. No, credo Andrea. Ah. Credo che Sergio non ha dato più, anche se Sergio Pininfarina, sempre già quando era qui all'Unione Industriale direttore, poi è passato a fare il direttore della Confindustria, ha sempre avuto l'attenzione all'internazionalità, più in termini però europei. Andrea era più mondiale, era più worldwide. Ecco, quindi stile Marchionne, uno stile che appunto, guardando poi anche le interviste, pur con alcune differenze, anche Poletto, Chiamparino, qualche parola positiva la spendano su questo stile Marchionne. Ma cosa possiamo aspettarci nei prossimi anni? Tra 2 anni, come si interpreterà un nuovo libro di Riccardo e Maria Ludovica Varvelli? Dunque, detto che mi piace piacerebbe poter scrivere fra 2 anni il terzo libro su Marchionne. La grande attesa che ho io, anche se purtroppo temo che andrà delusa, è quella di vedere se questa rottura con Confindustria sarà temporanea, come peraltro aveva adombrato nei primi interventi che aveva fatto già parlando con la Marcegaglia, si sono incontrati a Roma ma poi dopo anche a New York. La mia speranza è che l'uscita sia una provocazione per dimostrare la possibilità di sganciarsi da vecchi meccanismi un po' superati e obsoleti, ma la mia speranza è che poi questo rientri nuovamente nell'organismo confindustriale. Ecco, devo dire, proprio perché in questo momento sono reduce da una riunione che di questo argomento qua si è parlato, oggi è una mia speranza, ma è anche un mio grande dubbio che ciò potrà avvenire. Quindi il prossimo libro sarà dedicato un po' al sistema delle imprese, lo aspettiamo con ansia, grazie a Riccardo Varvelli, che con Maria Ludovica Varvelli, sua moglie, ha scritto questo libro, Stile Marchionne, un nuovo modello di management, sono 209 pagine per 18 euro ed è edito dal Sole 24 Ore. Vi ringrazio a quanti ci hanno seguito, in redazione Stefania Tagliaferri e Luca Cremonese, in regia Roberto Scaltritti. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.